Obama Romney. La grande sfida. Il 6 novembre l'America vota. Su Radio 24 da mezzanotte in poi, l'elezione del 45esimo presidente americano in diretta da Milano e New York. Notizie in tempo reale, approfondimenti, ospiti e commenti con gli ascoltatori. La lunga diretta elettorale proseguirà con gli speciali di 24 mattino e 9 in punto. Il voto americano, la grande sfida da seguire in diretta su Radio 24 e su radio24.it.